24 mattino di Alessandro Milan. Buongiorno cari ascoltatori, siamo qui alle 7:21 minuti. Saluto il nostro tecnico alpino Alpino Bescapè. Ti ho chiamato Alpino come se fosse il nome, ormai un onore. Peter Bescapè, il nostro alpino, eccoci qua. Allora, oggi avremo ospite tra un'ora esatta alle 8:20 quel vice prefetto di Torino che ieri raccontavamo si è tolto una multa. Si ha preso una multa, ha fatto ricorso alla prefettura, ha ricevuto questo ricorso, l'ha esaminato per bene e ha ritenuto che questo ricorso fosse legittimo e si è tolto la multa. E poi parleremo di questo emendamento dell'onorevole Fava della Lega che sta mandando in subbuglio mezza internet, blog, persone che usano queste piattaforme e che criticano questo bavaglio che verrebbe fatto da parte di questo onorevole della Lega, un emendamento che si richiama al più celebre SOPA americano. Ne parleremo alle 8:30, cercheremo di capire di cosa si tratta, questo però più avanti. Prima da cosa iniziamo? Come al solito dalla lettura dei quotidiani in edicola. Questo mercoledì 25 gennaio, intanto uno sguardo rapido ai titoli di apertura. Il Sole 24 Ore: scatta lo stop alle tariffe professionali, questo è il titolo di apertura. E poi la vicenda dei TIR su vari quotidiani. Per il Corriere della Sera: TIR, si muovono i prefetti. Per La Stampa: via i blocchi, merci ancora ferme. Libero: un paese in ostaggio. Il Giornale: si fermano le auto, altro che TIR, consumi di benzina giù dell'11% a causa delle tasse. Il Messaggero: stop ai blocchi dei TIR. Per il Manifesto: TIR e molla. Repubblica invece: chi sono i nuovi evasori totali? Questo è il titolo d'apertura. Il Fatto Quotidiano invece ha una vicenda che riguarda Roma, il sindaco Alemanno e i ragazzi picchiatori. È una vicenda del giugno 2009 che riguarda e coinvolge, scrive il Fatto, anche il sindaco Alemanno, poi la vedremo. Per l'Unità invece: chi sono gli sfigati? E ecco la gaffa o l'uscita del vice ministro Martone. Quella: se ha 28 anni, non sei laureato, sei uno sfigato. Certo, oggi sui giornali prende molte pagine. Due segnalazioni prima della pubblicità. La prima riguarda il nostro mondo che tanto amiamo, dorato della casta dei parlamentari. Arrivano le strette, arriva la stretta sullo stipendio, anche se Repubblica, che vi dedica una pagina, pagina 12, dice: attenzione, perché la montagna rischia di partorire il classico topolino per quel che riguarda le strette dei parlamentari. Sta di fatto che il 30 gennaio, e dunque lunedì, è un giorno importante perché si incontrano Fini e Schifani che dovrebbero annunciare alcune strette per quel che riguarda le paghe dei parlamentari. Lo stipendio si ridurrà a 10.000 euro netti, 5.000 di indennità. Quello che verrà toccato è quello di cui ci siamo occupati anche un paio di giorni fa, il rimborso di 3.690 euro alla Camera e 4.100 euro al Senato per ogni parlamentare, che viene dato per le spese sostenute spesso anche per i collaboratori parlamentari, cosiddetti portaborse. Ora basta, ora la Camera li darà solo a fronte di spese sostenute, per esempio con un regolare contratto del collaboratore parlamentare, ma metà di questi 3.690 euro verranno comunque dati, anche senza le spese, senza la dimostrazione di come sono andati a finire, di dove sono andati a finire questi 2.000 euro. Non si capisce perché. Anche La Stampa dedica un articolo a questo: portaborse, tagli dimezzati, agli onorevoli un forfè del 50%. A pagina 9 della Stampa, Carlo Bertini racconta: la stretta agli stipendi scatterà il 31 gennaio per l'appunto, ma solo 2.000 euro dei 3.690 che ogni parlamentare riceve per i collaboratori parlamentari dovranno essere giustificati. Gli altri 2.000 in pratica verranno dati così, senza giustificazione alcuna, cioè senza che il parlamentare dimostri come li ha spesi questi 2.000 euro. Staremo a vedere. Intanto la seconda segnalazione che vi voglio fare riguarda in realtà una trasmissione televisiva che questa sera denuncerà con tanto di documenti un qualcosa che viene oggi anticipato dai giornali. Beh, da Libero in prima pagina, perché l'autore dell'articolo, Gianluigi Nuzzi, è anche l'autore della trasmissione Gli Intoccabili, che va questa sera sulla 7, ma anche Sergio Rizzo sul Corriere della Sera racconta questa vicenda che coinvolge il Vaticano. I misteri della finanza in Vaticano, le rivelazioni di Monsignor Viganò, questo è il titolo del Corriere, l'articolo di Sergio Rizzo a pagina 22. Corruzione, la parola sinonimo di malaffare, degrado morale. A pronunciarla è un altissimo prelato vicino al Papa, come rivelerà questa sera il programma Gli Intoccabili, appunto di Gianluigi Nuzzi sulla 7. Vengono i brividi, perché il suo nome è Carlo Maria Viganò, fino a qualche mese fa segretario generale del Governatorato del Vaticano, struttura che gestisce gli appalti e le forniture del più piccolo e potente Stato della Terra. Corruzione è il termine che quel monsignore usa per descrivere in una clamorosa lettera al Papa Benedetto XVI l'incredibile situazione che si è trovato davanti dopo aver assunto nel luglio del 2009 questo delicatissimo incarico. In questa lettera, tra l'altro, Monsignor Viganò, prima di essere trasferito, denuncia la trasmissione, come nunzio apostolico a Washington, scrive al Papa: un mio trasferimento provocherebbe smarrimento in quanti hanno creduto fosse possibile risanare tante situazioni di corruzione e prevaricazione. Questa è la lettera inviata da Monsignor Viganò al Papa. E poi racconta in questa lettera di non essere isolato. I cardinali Velasio De Paulis, Paolo Sardi, Angelo Comastri conoscono bene la situazione. E poi la ricostruzione di questa storia: non avrei mai pensato, scrive ancora Monsignor Viganò, di trovarmi davanti a una situazione così disastrosa, rivela in un altro scioccante appunto inviato a Papa Ratzinger nella scorsa primavera, definendo inimmaginabile e per giunta a tutti nota incuria la situazione di appunto corruzione. Una gestione di soldi che viene tamponata e viene affidata a un comitato finanza e gestione composto da alcuni grandi banchieri che sono risultati fare più il loro interesse che i nostri. Queste sono sempre denunce di Monsignor Viganò al Papa. Chi sono i banchieri che vengono citati dall'autore della trasmissione Nuzzi? Sono Pellegrino Capaldo, Carlo Frattapasini, Ettore Gotti Tedeschi, Massimo Ponzellini, vale a dire l'ex presidente della Banca di Roma, Capaldo, e Frattapasini invece il presidente del Banco Popolare, Gotti Tedeschi è il banchiere scelto da Ratzinger per guidare lo IOR, l'Istituto Vaticano, e Ponzellini l'ex presidente della Banca Popolare di Milano. Insomma, una denuncia clamorosa anche su Libero, per l'appunto, come immaginabile, visto che, come detto, l'autore dell'articolo su Libero è anche l'autore della trasmissione. Privilegi e corruzioni nella casta del Vaticano. Monsignor Viganò denuncia di essere stato allontanato dalla Santa Sede perché aveva scoperto gli altarini e iniziato un'opera di tagli e pulizia. E ci saranno anche le lettere, i documenti che oggi verranno mostrati, tra cui queste lettere di Monsignor Viganò, per l'appunto, al Papa. Ci fermiamo per la pubblicità del meteo, ripartiamo poi da Bisonte Selvaggio, i tir che hanno bloccato e continuano, forse speriamo oggi meno se non zero, a bloccare il paese. Le 7:35 minuti, allora, Bisonte Selvaggio. Oggi troverete tanti articoli di inviati dei giornali che hanno cercato di raccogliere le voci della protesta, per esempio Paolo Berizzi su Repubblica, pagina 7, dinamite a Montecitorio, qui serve il colpo di Stato. È vero, sono stralci anche di sfoghi che viaggiano su Radio Tir, no? Utilizzando il CB. E il modo, il baracchino, come lo chiamano gli autotrasportatori, la ricetrasmittente attraverso la quale si parlano. E poi invece La Stampa fa una scelta diversa, pagina 3, Fabio Poletti va a bordo del padroncino, in viaggio con un padroncino che di notte viaggia per non essere fermato. Roberto Galli, 45 anni, di Erba, in provincia di Como, padre ex camionista, due fratelli camionisti, un figlio di 4 anni che dice farò di tutto nella vita ma non il camionista, racconta come viaggi di notte per cercare di evitare i blocchi dei colleghi, alcuni che dicono se viaggi ti taglio le gomme. C'è certo la rivendicazione sul caro del gasolio, sul rincaro del gasolio, sul fatto che qualcuno, è vero, tarocca il tachigrafo, qualcuno invece subisce la concorrenza di persone soprattutto dall'est che sono disposte a viaggiare anche 15 ore, che non rispettano i turni di riposo, che viaggiano con gomme lisce, rovinano il mercato, distruggono pure gli indotti, ma racconta Roberto Galli, io viaggio anche di notte per sfuggire a questi blocchi, non me lo posso permettere di bloccare tutto, non chiamatemi Crumiro, anche se viaggio sulla 4, la Milano-Venezia, come un clandestino di notte. Sta di fatto che molti giornali, tra cui Il Giornale, e questa è un po' una scelta editoriale che stupisce più di tutti, elogia in questo caso il governo. Sul Giornale trovate proprio questo, pugno duro del governo, c'è un ritratto tra l'altro di Emanuela Fontana che elogia a pagina 5 la scelta della Lady di Ferro, il ministro dell'interno, cancellieri, ex prefetto, ministro dell'interno, decisiva, viene definito sul Giornale, nella soluzione sullo stop agli autotrasportatori. La ricetta è quella di fermezza da una parte e dialogo. E racconta il Giornale in un profilo davvero elogiativo del ministro Cancellieri, che a Bologna già sostituì il sindaco e da commissario è stata rimpianta sia dal Partito Democratico sia dal Popolo della Libertà. Scherza con i giornalisti, è piena di humor, ma si rivela caparbia e con rigore nel gestire l'emergenza. Insomma, un vero e proprio endorsement, si potrebbe dire, all'inglese da parte del Giornale nei confronti della scelta del pugno duro del ministro dell'interno Cancellieri. Mentre il Corriere della Sera punta, pagina 3, in una lunga cronaca sulla vicenda, la vicenda invece drammatica che è costata la vita a uno dei manifestanti, Massimo Crepaldi, camionista di 46 anni, sposato con un figlio 18enne, travolto mentre blocca una camionista che è stata ora arrestata per omicidio colposo. Si tratta di una camionista tedesca, Karin, 53 anni. Karin Jutta Weckerle voleva tornare in Germania e tutti raccontano i testimoni, è stata fatta accostare dai manifestanti, ha tirato giù il finestrino, lei parlava in tedesco e quelli rispondevano in italiano, poi gli hanno detto di accostare e in quel momento è ripartita travolgendo Crepaldi, che è rimasto schiacciato dalle grosse ruote del tir, e ora questa donna deve rispondere di omicidio. Si capirà se omicidio colposo, perché dice lei non l'ho visto, o omicidio invece con dolo, se invece è ripartita proprio per andare via, non certo per ucciderlo, ma comunque per non essere bloccata, e invece ha finito per travolgere questo manifestante uccidendolo, questo autotrasportatore, ripeto, sposato con figlio. Ci sono anche i costi. Avete avuto esperienze o avete esperienze di supermercati con i bancali che cominciano, gli scaffali che cominciano a essere semivuoti? Prima Peter Bescapè mi diceva che ieri ha girato 4 benzinai, immagino a Milano tra l'altro, e in 4 benzinai era quasi esaurita la benzina, anzi esaurita la benzina, e quindi comincia a scarseggiare la benzina, comincia a scarseggiare i beni di prima necessità, aumentano i prezzi. Il Sole 24 Ore dà questa cifra, pagina 8, la paralisi costa 200 milioni di euro al giorno, il blocco dei tir colpisce l'agricoltura, l'industria, la distribuzione, c'è ovviamente poi il rischio, siamo italiani, no? Siamo italiani o no? Il rischio della speculazione sui prezzi, visto che cominciano a scarseggiare frutta, verdura, il latte, tutte le materie prime. E allora Emanuele Scarci appunto racconta tutti i dettagli a pagina 8, ma anche sul Corriere della Sera, pagina 6, scaffali vuoti nei supermarket. Forse bisognerebbe fare anche una riflessione sul fatto, come fa il Corriere della Sera, che il 90% dei beni viaggia su gomma. Peggio di noi in Europa fanno, per la verità, Spagna e Gran Bretagna. Questo è anche il risultato, il 90% dei beni viaggiano su gomma e dunque siamo anche nelle mani di decisioni da parte di autotrasportatori che, se bloccano il traffico e non solo, rischiano di paralizzare il paese anche per quel che riguarda i rifornimenti dei beni di prima necessità. Vabbè, questo per quel che riguarda i tir, oggi se ne occuperà Oscar Giannino alle 9, appuntamento con lui. E allora, invece, per quel che riguarda l'economia, c'è da dire che trovate intanto il monito del Fondo Monetario Internazionale, che ha lanciato questo monito a cui bisogna prestare attenzione, come scrive Alessandro Merli a pagina 3 del Sole. E certo, c'è stato l'elogio nei confronti delle manovre fiscali del governo italiano per l'avvio delle riforme strutturali, ma attenzione, l'Italia ha bisogno di tre cose, ha detto il capo dipartimento fiscale del fondo. La prima, l'aggiustamento di bilancio, che già sta facendo a giusta velocità. È un aggiustamento molto forte. E poi servono anche che cosa? La necessità di un firewall europeo, di una barriera antifiamme contro la crisi, e la seconda, le riforme strutturali. Ma l'Italia non può fare tutto da sola, questo il Fondo Monetario Internazionale. Mentre sul fronte italiano c'è ora qualcuno definisce il dietrofront, qualcuno come il ministro Fornero, l'abbiamo sentito anche in GR24, dice io non avevo mai detto questa cosa, beh c'è già un giallo sul tavolo per la riforma del mercato del lavoro sul tema della cassa integrazione, perché Fornero frena sull'abolizione della CIG, così titola pagina 17 il Sole 24 Ore. L'ipotesi di lunedì che era circolata nel primo incontro a Palazzo Chigi con le parti sociali era la stretta sugli ammortizzatori sociali con il ricorso esclusivo alla cassa integrazione ordinaria, un risarcimento per chi perde il posto. Insomma, ieri già si diceva verrà abolita la cassa integrazione, in particolare quella straordinaria. Il ministro Fornero ha detto non c'è scritto da nessuna parte, non si capisce da dove sia uscita questa notizia. Tutti i giornali oggi titolano come il Corriere cautela della Fornero, per il Sole appunto frena la Fornero, per Libero la Fornero si rimangia la cosa giusta. Massimo De Manzoni, vice direttore, c'era da aspettarselo, era una cosa giusta, Libero era l'unico giornale ad avere elogiato questa cosa, e invece subito c'è stato il passo indietro da parte del ministro Fornero. Ma sulla riforma del mercato del lavoro le parti si sono aggiornate alla prossima settimana, credo. Mentre partono le liberalizzazioni, ormai è ufficiale, e il Sole 24 Ore dedica varie pagine su questo. Perché? Perché con la firma del presidente Napolitano, la pubblicazione in Gazzetta, sono entrate in vigore oltre una decina di misure. Su cosa si concentra il Sole? Soprattutto sulle professioni, che cambiano molto. A pagina 12 Laura Cavestri racconta la novità sul preventivo, no? Si diceva con le liberalizzazioni ci vuole il preventivo obbligatorio per i professionisti. Ora invece c'è un piccolo controordine. Il preventivo del professionista andrà messo per iscritto solo se a richiederlo sarà il cliente stesso. Dunque, cari consumatori o clienti, se andate da un professionista dovrete chiederlo, altrimenti non c'è l'obbligo di mettere il preventivo per iscritto. Si attenua così la formulazione dell'articolo 9 del decreto legge liberalizzazioni, che individua l'obbligo deontologico di fornire per iscritto la pattuizione del compenso e una previsione di onorario. Il testo conferma il vincolo tra cliente e professionista di mettere nero su bianco il compenso per le prestazioni richieste, ma solo se dal cliente c'è questa esplicita richiesta. Comunque oggi il Sole dedica varie pagine sul tema liberalizzazioni. Dopodiché, non so, Peter Beschabè, tu ti senti uno sfigato? Non si sa, non risponde. Un grugnito, ha risposto con un grugnito. Io, secondo i parametri del viceministro Martone, non sarei uno sfigato. Mi ricordo di essermi laureato prima dei 28 anni, ma c'è chi ironizza, scienze politiche non è una laurea. Sta di fatto che il viceministro ha detto questo: dobbiamo passare questi messaggi ai giovani. Hai 28 anni e non hai ancora una laurea, sei uno sfigato. Sarà così. Allora, ho chiesto anche a Viola Bottoni in redazione, mi ha detto no, io non sono sfigata, dunque su tre io no, Viola Bottoni no e Peter Beschabè, mi sembra di capire, non sono un grande sfigato. Dunque, secondo il parametro del viceministro al welfare Martone, Michel Martone, siamo per ora due non sfigati e uno sfigato, qui in un velocissimo sondaggio che abbiamo fatto. E allora, se a 28 anni non hai la laurea, sei uno sfigato. Questo ha detto oggi, vi immaginate il profluvio di commenti, ironie. Poi il viceministro ieri è intervenuto alla Zanzara con Giuseppe Cruciani, ha un po' smentito, dice voleva in pratica portare alla luce un problema che effettivamente c'è in Italia, cioè l'età media molto alta di persone che si laureano, cioè ci si laurea tardi in Italia mediamente rispetto all'estero. Sta di fatto che questa battuta ha fatto infuriare gli studenti e anche qualche pepato commentatore, e insomma, per esempio il Secolo XIX con Mauro Barberis in prima pagina, la lezione stonata del viceministro figlio di papà, perché questo è un po' anche il punto. Certo, lui non è sicuramente uno sfigato, Michel Martone, figlio di Antonio Martone, presidente dell'autorità indipendente sulla funzione pubblica. Michel Martone, dottorando a 23 anni, ricercatore a 26 anni, professore associato a 27 anni, professore ordinario all'università a 29 anni. Che una carriera al fulmicotone, professore ordinario a 29 anni, forse il record italiano da parte di Michel Martone. Beh, complimenti, consigliere dell'ex ministro Brunetta. Sta di fatto che molti giornalisti fanno notare anche questo, c'è il commento di Gramellini in prima pagina, il buongiorno di Gramellini, i bamboccioni divennero sfigati. La Repubblica va a intervistare, si capisce, non è forse la scelta più azzeccata, non lo so, Alessandra Mussolini, l'onorevole Mussolini. Io ancora più sfigata, ho appena fatto l'abilitazione, adesso ho la laurea in medicina e i 28 anni li ho passati da un pezzo. Mi sono laureata in medicina a 32 anni, dopo il primo figlio, chissà cosa direbbe di me il viceministro Martone. Vabbè, in Italia si butta sempre anche un po' in ironia un problema e un tema che, posto in maniera sbagliata da parte del viceministro, che era la prima uscita pubblica, ha posto il problema in maniera sbagliatissima, però certo il problema in sé c'è. Che dire invece del tema della tragedia della Concordia? Beh, c'è questa intercettazione ambientale ora che sembra inchiodare ancora di più alle sue responsabilità il comandante Schettino, che beccato e fermato dai carabinieri non sapeva di essere controllato in una stanza da alcune cimici che intercettavano le sue conversazioni, e in una di queste al telefono in napoletano stretto, tanto che nell'ordinanza c'è la traduzione in italiano da parte dal dialetto, però ha detto questa frase, le due frasi chiave: la nave si inclinava e io me ne sono sceso, e quindi insomma non pare che sia caduto nella scialuppa di salvataggio come ha detto in un'altra versione. E poi anche questa frase in cui parlava sempre il manager rompeva, passa lì, chi è per dar retta al manager, passa da lì, e sta di fatto che ha combinato questo casino. Chi è il manager a cui si riferisce? Questo è uno dei misteri di cui si dovrà parlare. E poi c'è un articolo imperdibile di Gian Antonio Stella sul fatto che Der Spiegel, settimanale tedesco, ma anche altri giornali lo fanno notare, ha definito Schettino l'italiano tipo. Quegli stereotipi dalla Germania sugli italiani, come ai tempi della copertina con una pistola appoggiata su un piatto di spaghetti, scrive Gian Antonio Stella, ecco che torna Der Spiegel a accusarci dei soliti stereotipi razzisti nei confronti degli italiani. Vorrei concludere con quello che racconta il Fatto Quotidiano, perché è una scelta editoriale diversa, ma è una storia che solo il Fatto Quotidiano racconta in prima pagina. Il sindaco Alemanno e i ragazzi picchiatori è una storia che Marco Lillo e Ferruccio Sansa raccontano a pagina 2 e 3 e che riguarda una vicenda del giugno 2009, quando un raid fascista, scrive il Fatto, manda all'ospedale un quindicenne di destra che non gradiva i saluti romani. È una vicenda ricostruita tutta pagina 2 e 3 per l'appunto. è una vicenda che risale al 2 giugno del 2009. Che cosa scrive il Fatto Quotidiano? Che ad assistere a questo raid di militanti fascisti che picchiano selvaggiamente un ragazzo di 15 anni perché gli aveva mancato loro il rispetto, praticamente, ad assistere a questa scena c'era anche il figlio 14enne del sindaco di Roma, Gianni Alemanno. Al Fatto, scrivono gli autori, non interessa il suo ruolo, ma quello del primo cittadino della capitale, teatro di sempre maggiore frequenza di episodi di violenza a sfondo politico e spesso di matrice fascista. Tra l'altro, il ragazzino picchiato selvaggiamente è figlio di Carlo Vitelli, e a fare la denuncia è la moglie di Carlo Vitelli, che è una giornalista del Messaggero, Marida Lombardo Pigliola, autrice di bestseller sul tema del bullismo, che dice: ho scritto varie volte lettere al sindaco Alemanno perché trasformasse questo fatto bruttissimo in un momento pedagogico. Gli chiedevo di accompagnare suo figlio al commissariato per testimoniare tutto, invece non lo ha mai fatto. Ora scopro che la denuncia di mio marito sta per essere archiviata senza che nessuno abbia identificato gli aggressori, senza che siano state chiamate a testimoniare gli occupanti della macchina che arrivò a prelevare il figlio del sindaco. Insomma, c'è questa inchiesta che chissà farà discutere oppure non lo so. Nero Pesto, un ragazzino, dice no ai saluti romani, c'è anche Alemanno Junior, e si scatena la rappresaglia. Così il Fatto Quotidiano, la denuncia, pagina 2 e 3. 24 mattino. Eccoci, ben ritrovati da Alessandro Milan, sono le 8:22 minuti. Allora, capita a tutti di prendere una multa guidando, e ovviamente è capitato a tutti. È capitato anche al viceprefetto aggiunto di Torino, Roberto Dosio, che saluto. Viceprefetto, allora, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Senta, la sua vicenda è finita su tutti i giornali, perché allora a lei è capitato di prendere una multa, credo, il 27 maggio 2011. Sì. Guidava, leggo dai giornali, una macchina di suo padre, comunque una macchina non sua, che era sprovvista di, lei era sprovvisto di libretto di circolazione, e sì, nel senso che non era nel cruscotto a disposizione. Sì, sì, certo, stato... e tagliando assicurativo, un totale di 78 euro, una piccola contravvenzione, niente di... Certo. E lei ha fatto ricorso. Sì, esatto. Contro questa multa. Solo che ha fatto ricorso a se stesso, cioè alla prefettura. Certamente, perché ero io in quel periodo titolare dell'ufficio. Io avevo la delega di firma da parte del prefetto per trattare tutte le pratiche, tutti i ricorsi che riguardavano la provincia di Torino. Ha fatto dunque ricorso contro questa multa, perché lei dice: io ero in servizio, questa multa è ingiusta. Ha fatto ricorso, ha esaminato attentamente la pratica di se stesso e ha accolto il ricorso togliendosi la multa. Certo, l'unica cosa che mi sembra che ci sia stata una grossa strumentalizzazione, poi anche pompata a livello mediatico, perché la questione dovrebbe essere ridimensionata, e anzi io sono in grado di dimostrare che anche l'immagine che è stata data dovrebbe essere completamente ribaltata. Allora, le dico in sintesi, poi eventualmente lei mi farà le domande di rispondimento. Allora, innanzitutto io avevo pieno titolo a firmare quell'atto perché io ero il delegato. Quindi da un punto di vista della legittimità formale non ci sono... E questo nessuno l'ha mai messo in discussione. Dal punto di vista sostanziale ho utilizzato gli stessi criteri e le stesse procedure utilizzate per tutti i cittadini, e questo è un fatto anche riscontrato. Della pubblica amministrazione, parliamo in generale, non solo delle prefetture, c'è la tendenza, in quando si è, diciamo, parte in causa per un motivo di facciata e con la scusa del fatto che ci potrebbe essere un conflitto di interessi, di far trattare la pratica un altro. Beh, ci potrebbe essere, viceprefetto, cioè lei ha accolto un ricorso presentato da se stesso, cioè il dato di fatto è questo, è tutto legittimo, per carità, lei era il titolare di esaminare i ricorsi, solo che il ricorrente era lei, capisce che... No, ma ho capito, ma io credo, e questo fa parte di una visione di pubblica amministrazione rinnovata, moderna e trasparente, che purtroppo non è ancora una visione maggioritaria, ma che io credo che debba ad un certo punto nel futuro avere la preponderanza, è quella che ciascuno deve prendersi la responsabilità degli atti che lo riguardano e gli competono. Io le posso dimostrare che questo gesto è stato un gesto di stile, di trasparenza e di correttezza, perché io avrei potuto fare moltissime cose che avrebbero portato all'archiviazione in una maniera più nascosta, più occulta, anche legittima, ma che io ritengo ipocrita. Beh, ma perché scusi, allora, perché lei, ma scusi, lei ci sta dicendo da vice prefetto che avrebbe potuto trovare dei sotterfugi per occultare la vicenda? No, non dei sei sotterfugi in senso lato, nel senso che io potevo far firmare l'archiviazione da un collega con i poteri di firma di sostituzione quando io faceva quello elegante che... Questo è quello che io combatto come linea che purtroppo viene utilizzata in alcune amministrazioni pubbliche con la scusa di evitare il conflitto di interessi, che in realtà è una grande ipocrisia. Ma perché lei dice ho fatto una scelta di stile? Perché dice ci ho messo la faccia, cioè il colui che doveva... Io mi sono assunto la responsabilità di firmare un atto che per delega amministrativa mi competeva. Anche se riguardava se stessa. Tenga conto che è proprio il principio della trasparenza che io ho voluto salvaguardare, perché se io avessi fatto firmare l'atto ad un collega non sarebbe risultato, diciamo, questa commistione tra ricorrente e chi doveva giudicare il ricorso, ma in realtà da un punto di vista formale io ero in quel momento a livello apicale dell'ufficio, sì, quindi dovevo per forza io essere a trattare il ricorso. Il fatto di trattarlo con gli stessi criteri, molto trasparente e chiaro, assumendomi la responsabilità della firma, è stata una scelta. Certo, una certo. Scelta, no, ma su questo guardi, posso dire, su questo io dirò una cosa controcorrente, la difendo. Cioè lei dice io sono colui che sono titolato ad accogliere i ricorsi e siccome il ricorrente ero io stesso, avrei potuto per eleganza far firmare a un collega e mi salvavo. Assumermi la responsabilità ho firmato. Questo, perché questi cittadini devono saperlo. Purtroppo in alcune amministrazioni pubbliche, quando ci sono dei termini di scadenza, se si vuole fare in modo che una pratica venga trattato in senso favorevole, si lascia scadere il ricorso. Però mi scusi, vice prefetto, non era più di stile pagare questi 78 euro? In fondo lei era senza, è vero che la macchina non era sua, ma non aveva l'assicurazione esposta. Poteva essere una scelta di opportunità e di prudenza il fatto di farlo. Comunque 78 euro. Mi è sembrato molto ingiusto per il semplice fatto che ricorrevano agli estremi che ricorrono solitamente per l'archiviazione, per dipendenti delle forze di polizia o di enti pubblici nel momento in cui sono in servizio e hanno delle ragioni di urgenza. Siccome io, e la cosa è dimostrabile, ero in un momento di urgenza e di servizio perché dovevo firmare degli atti che altrimenti scadevano, questo caso avevo tutte le esimenti dell'articolo 4 della legge 689, cioè le cause di giustificazione. Vabbè, però lei è indagato per abuso d'ufficio. Guardi, questo io credo che sia nato anche per una forma di eccesso di zelo di chi, nuovo dirigente della Polizia Stradale, non era molto addentro alla questione. Infatti con la stessa persona, che mi è sembrata un'ottima persona, ho poi chiarito. Il fatto è che subito è sembrato un atto illegittimo ed è stato inviato il documento alla procura. Una volta inviato alla procura si è aperto il fascicolo, dice. Esatto, poi l'abuso d'ufficio è un reato ormai. Ma l'abuso d'ufficio è un'ipotesi assolutamente inconsistente, sia perché non esiste nemmeno l'illegittimità formale e amministrativa, per cui tantomeno quella dell'abuso d'ufficio. Insomma, lei anche dice comunque... le posso dire, guarda, che questo è anche importante, se l'atto fosse stato considerato illegittimo, la polizia stradale poteva impugnare. Non è stato assolutamente in ogni caso, vice prefetto, lei quando legge i titoli il vice prefetto si cancella la multa, non ci trovo, come lo giudica? Titoli scorretti? No, formalmente è successo questo, di fatto formalmente è successo così, cioè. Certo, ma infatti questo lo comprendo, perché siamo tutti come cittadini in un periodo in cui diffidiamo anche di una certa politica e anche cattiva amministrazione, per cui tutto ciò che in qualche modo può mettere in evidenza queste situazioni viene rilevato. Senta, tutta la mia solidarietà. Il fatto è che è stata additata la persona sbagliata, perché proprio la persona che ha agito con trasparenza, che si è esposto e che quindi esponendosi probabilmente ha dato adito a qualcuno di operare. Sì, di fare. Vabbè, mi dica. Mi suggerisca la domanda. Che cosa c'è dietro a questa cosa? Cioè, ad un certo punto, non le sembra strano che una vicenda così minimale abbia avuto un risvolto mediatico addirittura? Ma adesso questo non lo so, non voglio entrare, anche perché devo dare in pubblicità, non voglio entrare in questo. Mi dica solo una cosa flash: quanto ha esaminato in maniera approfondita questa richiesta di ricorso fatta da se stesso o da lei, oppure in due secondi sapeva già che aveva ragione? Guardi, io conoscendo la dinamica dei fatti, chiaramente essendo stato in causa, sapevo che le modalità rientravano nei criteri di giustificazione. In questo caso io chiaramente, come passi di legge, suggerisce, ho inviato alla polizia stradale il mio ricorso, il quale ha risposto con delle controdeduzioni, e questo anche che è stato non messo in evidenza. Sì. Le controdeduzioni non hanno contestato i fatti, hanno semplicemente contestato il fatto che l'articolo 4 si estendesse a questo tipo di fattispecie di contravvenzione. Vabbè, questa interpretazione di tipo amministrativo noi non la condividiamo, la prefettura è organo superiore e per tutti i cittadini noi abbiamo dato, almeno nella linea del mio ufficio, è stata data un'interpretazione estensiva dell'articolo 4, proprio perché a che senso avrebbe fare ricorso per un cittadino se poi le sue cause di giustificazione non venissero accolte? Vabbè, in ogni caso, lei ha esaminato questa pratica brevemente, perché la conosceva già e ha deciso così. Senta, io la ringrazio per essere stato con noi. La devo salutare. Sempre a disposizione. Grazie, grazie. Viceprefetto Roberto Dosio, viceprefetto aggiunto a Torino, ci ha spiegato come è venuta questa vicenda di una multa presa da lui. Ha fatto ricorso, in quel momento era lui destinato a firmare e a decidere sui ricorsi, e ha deciso di accogliere il ricorso e si è tolto la multa. 24 mattino. Allora, le 8:37 minuti, c'è un parlamentare italiano che è stato definito e viene definito nemico della rete, nemico di internet, autore di un emendamento bavaglio, censore. È l'onorevole Gianni Fava della Lega Nord, a cui do il buongiorno. Onorevole Fava, buongiorno. Buongiorno. Dovrei dire buonanotte, perché noi la ringraziamo molto, lei in collegamento da Washington, dagli Stati Uniti, è piena notte dunque, in diretta, è l'autore di quell'emendamento alla legge comunitaria che ha fatto già mobilitare il mondo della rete, perché in questo emendamento, io lo dico molto in succo, poi dopo ce lo spiegherà meglio lei, sono procedure più snelle per far rimuovere dalla rete contenuti che una persona ritiene illegittimi, per esempio contenuti diffamatori o contenuti che violano il diritto d'autore. È un tema molto dibattuto, ne parliamo anche con Alessandro Giglioli, giornalista dell'Espresso, blogger di Piovono Rane, uno dei blogger più celebri. Buongiorno Alessandro e benvenuto. Buongiorno a tutti. Alessandro Giglioli, per esempio, l'ha messo la foto dell'onorevole Fava dicendo: ecco il nemico della rete. Onorevole Fava, intanto lei è negli Stati Uniti perché sta avendo alcuni incontri con anche i padri fondatori di una legge che peraltro è stata per il momento messa in sospesa, il cosiddetto SOPA, altre leggi che sono state accusate di voler mettere il bavaglio su internet. Lei vuole mettere il bavaglio su internet? Ma più che il sottoscritto, il bavaglio su internet probabilmente lo vuole mettere il governo e tutto il Parlamento, perché noi stiamo parlando di un emendamento che è stato presentato alla legge comunitaria e che è passato in commissione all'unanimità. Cioè tutti i gruppi parlamentari rappresentati in commissione, che è la 14ª commissione politica comunitaria, della quale io peraltro non faccio nemmeno parte, quindi non ho nemmeno votato io, per darle un elemento in più, hanno scelto di votarlo, e così come hanno fatto loro, ha fatto anche il governo, che ha dato parere favorevole all'emendamento. Questo è l'aspetto politico. Allora, l'aspetto politico. Ma questo aspetto politico non è irrilevante, perché adesso gli stessi partiti che hanno fatto questa scelta hanno fatto repertine marci indietro, cioè delle due l'una, o tutti dormivano mentre erano lì a votarlo, oppure oggi stanno fingendo perché stanno cavalcando probabilmente il dissenso. Però venendo alla questione, diciamo, dell'emendamento, cioè lei vuole che se io scrivo un qualcosa di, per esempio... Mi scusi, va chiarito un attimino qual è il mio ruolo. Sì. Io sono il presidente della commissione d'inchiesta sulla lotta contro la contraffazione della Camera. Certo. Quindi questo emendamento in realtà era una proposta di legge uscita dopo un lungo dibattito all'interno della commissione contro la contraffazione della Camera. Già 8 mesi fa io avevo presentato la proposta di legge e si è trasformato in un emendamento con consenso di tutti. Io sono il presentatore in quanto presidente, perché una commissione non può presentare proposte di legge o emendamenti, sono i singoli parlamentari che lo fanno. Quindi il percorso è un percorso assolutamente condiviso all'interno del Parlamento ed è una legge che è nata per far fronte ai problemi che sono nati intorno al tema del commercio elettronico. Noi non possiamo dimenticare. Quindi la pirateria online, i download. Anche la vendita di merci contraffatte, perché guardi che questo emendamento riprende di fatto una sentenza della Corte di Giustizia Europea, la famosa sentenza L'Oreal Bay, e che aveva stabilito una volta per tutte un principio, e che è il principio per il quale il service provider non può definirsi totalmente non responsabile qualora vengano violati i diritti di soggetti che ne possono vantare titolo. Nel caso specifico venivano venduti prodotti contraffatti di L'Oreal, L'Oreal si è rivolta al giudice e alla Corte di Giustizia Europea, la Corte di Giustizia Europea ha accolto il principio per il quale eBay non poteva continuare a dichiararsi assolutamente non a conoscenza dei fatti e non avere nessuna responsabilità. Questo sì. Però perché l'hanno accusata di fare una legge bavaglio, cioè di volere snellire queste procedure per cui il prestatore di servizi internet, tanto per farci capire, Google magari o Facebook o YouTube, se ha un qualcosa di illegittimo, la persona che si sente, che si ritiene offesa o che si ritiene violata in un suo diritto, può far togliere immediatamente questa cosa da... Insomma, mi hanno accusato alcuni blogger, e devo dire non tutti in modo disinteressato di questo, ma devo anche dire che molte imprese italiane hanno dimostrato interesse rispetto alla proposta, perché è chiaro che questa è una proposta che va a tutela e interesse alle imprese stesse. Guarda che stiamo parlando di un mercato a livello mondiale oggi che sposta 250-300 miliardi di dollari all'anno di prodotti che vengono venduti. In Italia questo, si parla di 7-10 miliardi di euro di volume, il volume di affari delle merci contraffatte che vengono vendute anche attraverso la rete. Quindi stiamo parlando di un qualcosa che sta incidendo pesantemente sul sistema economico, e io credo che probabilmente quella potrebbe anche non essere la migliore delle soluzioni, ma sicuramente è un modo per cominciare a affrontare il problema. Noi non possiamo continuare a far finta che il problema non esista, tenere la testa sotto la sabbia come fanno gli struzzi. Senta, Giglioli, qua perché l'hai definito, anche con tanto di foto, Gianni Fava uno dei nemici della rete? Qual è la colpa di Gianni Fava che dice voglio tutelare semmai i diritti di alcune persone di fronte al propalarsi in rete di tutto, dove c'è veramente di tutto su internet e bisogna in qualche modo difendersi? Allora Milan, mi perdoni, ma lei ha usato un verbo molto sbagliato, perché qui snellire un tubo. Questo emendamento stabilisce che i fornitori dei servizi di hosting, Facebook piuttosto che YouTube, Google, qualunque altro fornitore di servizi di hosting, è tenuto a rimuovere qualsiasi contenuto dietro semplice segnalazione di chi si sente, attenzione, non di chi è, di chi si sente violato nel suo copyright. Le faccio un esempio, Milan. Se qualcuno trascrive questa nostra conversazione su un suo blog, il Sole 24 Ore e l'azienda Sole 24 Ore potrebbe chiedere a quel blogger di rimuovere la trascrizione della nostra chiacchierata. In quanto titolare di un diritto d'autore. In quanto si sente, ma anche non l'audio, anche semplicemente questa nostra chiacchierata trascritta. Sì. A questo punto cosa fa l'azienda che offre la piattaforma del blog al blogger? È evidentemente in una condizione per cui da un lato c'ha uno che gli chiede di assumersi la responsabilità di un contenuto pubblicato da uno dei suoi milioni di utenti, oppure, e quindi pagare con le proprie tasche, oppure di rimuoverlo. Cosa farà secondo lei? Evidentemente lo rimuoverà. È un emendamento che va a impattare direttamente sull'articolo 21 della Costituzione. Ripeto, senza passare attraverso un giudice. Lei ha accennato al SOPA, alla legge americana. La legge americana, sì, per quanto sia una legge molto discutibile, infatti è stata bloccata, infatti anche Obama ha detto che non l'approva per quanto riguarda la sua posizione personale. Il SOPA implica il passaggio attraverso un magistrato. Se si rimuove un contenuto, se si rimuove un'opinione, se si rimuove qualsiasi cosa dalla rete, bisogna passare attraverso il giudice. In Italia no, in Italia deve essere, secondo l'emendamento proposto dall'onorevole Fava, direttamente il proprietario della piattaforma a rimuovere, a censurare un contenuto. Perdoni, devo andare un po' avanti se lei ha un attimo di pazienza. Quindi non si tratta di snellire, si tratta di censurare, che è molto importante. Quindi c'è un problema di carattere, di merito. C'è un problema politico che Fava ha toccato bene, secondo me. Cioè dormivano, sì è vero, dormivano. Dormivano nel senso che tutta la Commissione ha approvato questo emendamento, non è la prima volta, era già successo con l'emendamento D'Alia. Questo emendamento è fatto da un onorevole che, e poi parleremo anche di questo problema, non ha una competenza specifica su un tema sensibile e importante come la rete e il diritto di espressione in rete. E poi hanno, come dire, lanciato il sasso e tirato dietro la mano, perché non so se l'onorevole Fava è informato, ma ieri c'è un bravo blogger che si chiama Fabio Chiusi, ha fatto una breve analisi della posizione dei partiti, sia l'UDC, sia Future Libertà, sia il PD, Serie BV hanno detto che bloccheranno. Si sono contrari, su questo emendamento, infatti lo bloccheranno. Antonio Palmieri, che è responsabile web, ha detto che lo controemenderà, e quindi mi dispiace per l'onorevole Fava, ma l'hanno rimasto solo, per usare una espressione. Fermiamoci, devo dare le informazioni sul traffico, poi voglio ripartire da questo. Insomma, l'accusa appunto di non volere mettere ordine, ma l'accusa di volere censurare, questa è la libertà di espressione, questa è l'accusa forte alla quale Fava risponderà tra un attimo dopo il traffico. Allora, onorevole Fava, prima di chiarire la questione sulla quale so che lei ieri è intervenuto a dire non è vero che io voglio bypassare il giudice, ma prima di chiarire questo, la questione del coinvolgimento o meno di un giudice nel caso uno voglia contestare un qualcosa che viene pubblicato su internet, risponda alla questione della censura, l'accusa di censura che le ha fatto Giglioli, che è un'accusa molto forte e che le fanno molti, guardi, nel mondo internet sarà fatto un giro anche lei sulla rete, no? Per vedere. Guardi, nel mondo internet ovviamente molti di questi soggetti dimostrano di non essere immuni dalla forza, del potere, delle lobby che in realtà stanno proprio vicine ai service provider, cioè i casi di questi giorni sono talmente catanti per dimostrare che intorno al commercio elettronico ci sono anche organizzazioni criminali che si muovono e che hanno interessi diversi e che usano tutti i loro metodi possibili e immaginabili. Ma al di là di questo, quindi, lungi da me l'intenzione di censurare la rete, ci mancherebbe altro, io sono un fruitore massiccio della rete e penso che di tutto ci fosse tranne che l'intenzione di far quello. Però l'esempio concreto che ci ha fatto Giglioli, no? Il fatto che se uno prende la conversazione che stiamo facendo, la trascriviamo. L'esempio concreto è sbagliato, cioè, nel senso che è evidente che il service provider, nel momento in cui viene a conoscenza del fatto che gli interessi di un soggetto vengono violati, può scegliere chiaramente di autonomamente considerare positiva o negativa, considerare in modo favorevole o meno la segnalazione, sì. Ma voglio dire che tutto poi passa comunque dal giudice. Cioè, cosa vuol dire può considerare? Arriva una segnalazione, non so, e dice: voi di YouTube avete messo una cosa che io ritengo sbagliata. Faccio un esempio più concreto, perché questa è la finalità, sì, del provvedimento. Arriva la segnalazione del brand italiano, ce ne sono decine e centinaia, che viene danneggiato, perché questa è una norma che tende a tutelare, sì, le imprese, questa è la verità, che qualcuno fa finta di non capire. Arriva la segnalazione dell'azienda italiana che dice: io guarda caro eBay che sul tuo sito, o guarda caro Google che sul tuo sito stanno vendendo false borse della Yamaha, false scarpe o false orologi, come avviene quotidianamente. Che deve fare eBay? Deve fare esattamente come dice la Corte di Giustizia Europea, cioè deve rimuovere questi contenuti, in difetto del quale c'è una reiterazione di un reato, quindi si continua ad andare avanti con un reato. Qui ci sono in ballo anche i diritti dei produttori, sono in ballo i diritti delle aziende, non è solo un problema di libera circolazione delle idee, che ci mancherebbe altro che qualcuno la volesse fermare, non era la mia intenzione, ma in ogni caso, anche se, come dice probabilmente in modo corretto Giglioli, il Parlamento mi avesse abbandonato, resta un fatto specifico, che è iniziato un dibattito su questa cosa. Poi alla fine il Parlamento può scegliere in autonomia di cassare questa norma, ci mancherebbe altro. Però a lei interessa il dibattito che ha lanciato, ma su questo Giglioli... Si comincia a discutere questo problema. No, ma certo, anzi prima di Giglioli mi faccia andare da un ascoltatore, prima di Giglioli che ci ha chiamato all'800240024, Pietro da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Dica, complimenti, Pietro, per la trasmissione. Mi permetto di intervenire, io lavoro da 15 anni nel settore e conosco il fenomeno di pubblicazione di informazioni sul web e mi permetto di fare una mezza battuta, che se prima abbiamo la legge Porcellum per le elezioni, avremo la Porcatum per quanto riguarda questo emendamento, che dà in mano ai service provider, per evitare questioni, l'autorizzazione di rimuovere contenuti che vengono postati. Faccio solo un esempio: ad oggi molte delle guerre che abbiamo assistito, guerre civili, hanno avuto in Libia piuttosto così come mezzo di sfogo il web. Sì. Se fosse passata una legge di questo genere, i service provider, per non avere questioni con regime, avrebbero rimosso le informazioni. Vediamo la Cina quando non vuole. È interessante, quindi lei la sposta su questo campo molto molto interessante, anche molto attuale. Diamo un potere ai service provider, che sono una società a scopo di lucro, non dei benefattori, non emergency o quant'altro, il potere di decidere se un'informazione è giusto che sia o meno. Sì, oppure Pietro, più che dare il potere, l'accusa mi pare che possa essere quella di condivisibile da Giglioli, mettiamo anche questi service a volte sotto il ricatto di chi gli intima di togliere delle cose che sono considerate, sempre per seguire l'esempio delle guerre, che sono considerate diffamatorie, e il service provider cosa fa di fronte, che ne so, a un regime che ti impone di togliere questa cosa, la toglie. Giglioli, questa per esempio è un tipo di minaccia fattibile? Allora, perché l'Italia è un regime, scusi, non ho capito. No, non l'Italia, mi riferivo. Il problema è questo, che l'onorevole Fava, ci sono tre possibilità, o non ha letto la legge che ha scritto, oppure dice delle inesattezze, perché l'intervento, lui ha detto, si va comunque davanti a un giudice, non è vero, si va davanti a un giudice solo e esclusivamente nel momento in cui si crea una opposizione da parte del service provider o nel momento in cui il blogger fa intenta causa al service provider perché gli ha rimosso. No, lui dice, Giglioli, lui dice se c'è una richiesta il provider può tenerne conto certo, oppure allora no. Allora creiamo una situazione in cui il service provider intanto deve assumere una quantità di persone che non mi sembra una grande come sviluppo per la rete in Italia, deve caricarsi di una quantità di persone che fanno un'analisi e una rimozione di contenuti. Ne nasce una quantità di cause infinite che va a ingolfare la giustizia civile e si crea una situazione allucinante per cui di fatto il singolo blogger, il cittadino che mette contenuti sulla rete è in una posizione di subordinazione, di subalternità rispetto a chi, alle grandi corporation o alle aziende che comunque intimeranno ai service provider di rimuovere. Però Giglioli, un problema c'è, che è questo, ci pongono anche molti ascoltatori via SMS, che è il cosiddetto diritto all'oblio, cioè ci sono alcune informazioni che effettivamente sono errate, scorrette, diffamatorie, che non si riescono a togliere perché aspetta di fare causa e poi non si sa neanche dove registrare. Non c'entra assolutamente, non c'entra assolutamente, il problema del diritto all'oblio che sto proprio ieri analizzato in sede europea, non c'entra assolutamente niente con la proposta di legge di Fava. Fava è un signore che nella sua vita, fino a luglio del 2011, si è occupato di tutto, dai mondiali di rugby fino al Congo, soprattutto di rifiuti, di altre cose, e non ha, mi perdoni Fava, niente di personale, alcuna competenza di carattere digitale su internet. È una cosa allucinante, non Fava, ma il fatto che in questo paese si mandi a legiferare su un tema sensibile come la rete persone che non hanno competenza, poi per forza che in commissione dormono perché approvano senza sapere neanche quello che stanno votando. Beh, ma ancora più grave, niente di personale Fava... però insomma, ci va giù duro, no. Giulio. No, ma non è un problema suo, è come se a me chiedessero di fare un pezzo per il mio giornale di fisica quantistica, cioè posso anche provarci ma farei una schifezza. No, è la stessa cosa che ha fatto Fava. Il problema è che il carattere economico che pone Fava è ancora più, come dire, ancora più incredibile, perché lui suggerisce che la sua proposta di legge abbia un effetto positivo sull'economia, quando è esattamente il contrario, va a pesare su una realtà come quella italiana, che è in fondo a tutte le classifiche di internet, c'è, come dire, concordia e unanimità fra tutti gli esperti sul fatto che internet produce PIL, proprio di ieri la notizia che la Facebook Economy, cioè l'economia creata dal... E invece si va a colpire questo. E si va a colpire questo, proprio in una fase di sviluppo. L'Italia è l'unico paese del G8 che non ha ancora un'agenda digitale, metà della popolazione italiana non è entrata in internet, siamo indietro, siamo arretrati. E si va a colpire. Si va a colpire la rete per una norma censoria, assurda, che di fatto... convince le persone a non immettere contenuti. E su questo però, Giglioli, mi devo fermare perché altrimenti sforo. Ringrazio l'onorevole Fava che si è svegliato di notte, di questo almeno lo ringrazio. Per noi da Washington è Alessandro Giglioli e ci troviamo domattina alle 7:20.